Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana, puntata come sempre venerdì in cui avremo anche la poco invidiabile classifica sugli sprechi mal costume della pubblica amministrazione, ripeto, soprattutto quando riguarda i soldi nostri. E come sempre anche il caso virtuoso, oggi la notizia di cronaca riguarda chiaramente Deutsche Bank nel doppio senso del tonfo questa mattina, è arrivata a perdere più del 9% e poi invece del fortissimo recupero che ha messo in piedi dopo. Il caos è sovrano, poche idee ma confuse, nel senso che cosa è successo? A innescare la nuova ondata di vendite, come già spiegato poco fa Oscar Giannino, è stata la notizia che una decina di hedge fund avrebbero ridotto la loro esposizione verso la banca tedesca, ritirando la liquidità e il timore appunto di quella che in americano si chiama stampede, cioè la corsa dei cavalli, perché tutti iniziano, noi diremo il gregge, iniziano a vendere. La banca, sappiamo perché ne parliamo da settimane, è sotto pressione sia per i 30 miliardi di derivati che ha in pancia, prodotti tossici, ma soprattutto che non hanno ancora, che hanno una contabilizzazione quantomeno ottimistica nel bilancio di Deutsche Bank, sia soprattutto, notizia più recente, per i 14 miliardi di euro di multa che il Dipartimento di Giustizia americano ha affibbiato a Deutsche Bank per comportamenti scorretti adottati dal colosso tedesco nella vendita di prodotti legati ai mutui subprime. Tutto il problema di Deutsche Bank, o gran parte del problema, Deutsche Bank ce l'ha per le operazioni condotte dalla sua controllata americana. E questa mattina il livello delle azioni è sceso a un valore che è il più basso da 24 anni a questa parte per il colosso bancario tedesco. I CDS, credit default swaps, quindi quello che noi chiamiamo, per farci capire, il premio assicurativo che si paga per assicurarsi contro il rischio di fallimento, ha superato i 520 punti e sono crollati i prezzi delle obbligazioni convertibili, perché come nel caso mutatis mutandis del Monte dei Paschi, anche qui il ragionamento è che i primi a essere colpiti in caso di salvataggio della banca trasformando queste obbligazioni, immagino, in azioni, sarebbero proprio le obbligazioni convertibili, perché sono convertibili per definizione in azione. Di mezzo c'è la politica, nel senso che durante la settimana la stampa europea ha più volte rilanciato l'ipotesi di un intervento pubblico a sostegno della banca, smentito ogni volta dal governo tedesco, e resta il fatto che il titolo Deutsche Bank ha perso il 50% da inizio negli ultimi 12 mesi e la capitalizzazione di borsa è scesa da 28 miliardi a 14 miliardi di euro, si è appunto dimezzata. Il recupero però, dopo le rassicurazioni del numero uno John Cryan, secondo cui la violenta speculazione sul titolo è ingiustificata, il titolo ha solide fondamenta, ha fatto sì, il recupero, dicevo, del titolo ha fatto sì che anche a Milano, dopo un calo forte del settore bancario, recuperassero le banche. Adesso la Popolare di Milano guadagna il 6,90%, il Banco Popolare il 4%, ST Microelectronics il 3,90%, Sapiam il 2,40%, non c'entra col mondo bancario chiaramente, invece Popolare Emilia Romagna più 2,20%, UbiBanca più 1,80%. Negativa ancora il Monte dei Paschi, meno 1,12%, e sul fronte bancario assicurativo anche Unipol meno 0,60%, Azimut meno 1% sul risparmio gestito. Luxottica è il peggior titolo, meno 1,50%. Giustamente alcuni ascoltatori mi dicono: ma come ha fatto a passare a pieni voti gli stress test? E qui è il tema di come sono, ne abbiamo già parlato, strutturati, organizzati questi stress test. Di fatto, per dare una sintesi, penalizzano molto più i crediti in sofferenza e quindi prestiti fatti alle imprese che non torneranno indietro, e in generale il prestare soldi alle imprese, che non quanto a patrimonio che devi avere se presti soldi alle imprese, che non l'investimento in prodotti speculativi come i derivati e quello che ha in pancia Deutsche Bank. È una cosa assurda, l'abbiamo detta più volte, perché la crisi del 2007-2008 scoppia proprio per l'ammontare enorme di derivati che non riescono a un certo momento a far prezzo, eppure la European Banking Authority e anche la BCE, non nella parte di Mario Draghi ma nella parte franco-tedesca che guida questi stress test, dà una penalizzazione più forte a chi ha una sofferenza di carattere tipicamente da attività bancaria, perché presti soldi e c'è un rischio, rispetto a chi ha investito come Deutsche Bank in prodotti derivati, pur sapendo che quello che è successo nel 2008 è che questi prodotti a un certo momento, in certe settimane, ricorderete, dopo Lehman Brothers, non riuscivano a fare prezzo, cioè non c'era un valore di carta su carta che il mercato attribuisse. Ecco perché Deutsche Bank, per il rotto della cuffia, ma ha passato gli stress test, il Monte dei Paschi, per esempio, no. Ne parleremo nella seconda ora del programma. Il resto della borsa, l'ho detto, più 0,60 Milano a questo punto, più 0,20 Parigi, più 1% Francoforte, meno 0,60 Londra, più 1% in questo momento il Dow Jones. 349-238-6666 per vostri sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Allora, per quello che riguarda le notizie, come sempre partiamo dalle notizie di carattere internazionale. Il petrolio oggi è vicino ai 48 dollari al barile, il numero dell'ENI, Claudio Descalzi, oggi ha commentato il preaccordo annunciato ieri come un fatto molto importante, perché da due anni non si vedeva l'OPEC unita insieme per decidere. Si tratta di un segnale per il futuro, ha detto Descalzi, un risultato molto buono perché è evidente che qualcosa è cambiato. Allora, interessante quanto pubblica oggi il Sole 24 Ore, ma è il rapporto di Ernst & Young, secondo cui nel corso del 2016 il mercato delle IPO, delle Initial Public Offering, quindi dei collocamenti in borsa, ha viaggiato a passo lento, e per assistere a una ripresa bisognerà aspettare ancora un po'. Sostanzialmente il mercato delle quotazioni è stato penalizzato da livelli senza precedenti di incertezza geopolitica quest'anno, si chiama Brexit ma non solo, e probabilmente, sostiene Ernst & Young, non si assisterà a una ripresa significativa da qua a dicembre. Finora a livello mondiale i collocamenti in borsa hanno raccolto 80 miliardi di dollari, non è tantissimo, il 40% in meno rispetto ai primi 9 mesi del 2015, e anche il quarto trimestre proseguirà in modo debole. Si potrà parlare di un ritorno ai collocamenti in borsa solo a 2017 inoltrato. Sì, qualcuno mi scrive: come sempre per mettere in riga i tedeschi ci vogliono gli americani. Sì, non è un'ipotesi del tutto strampalata, perché se uniamo questa vicenda con la vicenda Volkswagen, da più parti si sente dire che in realtà c'è una botta e risposta tra Stati Uniti e Germania, anche per la posizione tedesca, secondo alcuni, poco sensibile alle richieste arrivate nei vari vertici, penso a Jackson Hole, ma non solo, anche al G20, di una Germania che ammorbidisca l'approccio di austerità in Europa. E quindi c'è chi vuole leggere in questo scontro anche un modo per bastonare o dare dei messaggi ai tedeschi molto riottosi, diciamo, a modificare le proprie politiche all'interno della REU. Ancora, per quello che riguarda Commerzbank, no, in questo momento era mista, perdeva lo 0,3, lo 0,4%, mi chiede di Commerzbank, che è un'altra banca in difficoltà, ha annunciato 9.000 esuberi, 7.000 netto delle assunzioni ieri. Restiamo in Europa, in Gran Bretagna il PIL fa più 0,7% nel secondo trimestre, c'è comunque una prospettiva di un rallentamento soprattutto nei prossimi mesi dovuto alla Brexit. La Nissan ha frenato sull'investimento in Gran Bretagna, ha chiesto garanzie per il post Brexit. In Inghilterra la Nissan impiega 6.700 lavoratori per assemblare vari modelli, e vuole garanzie di compensazioni a fronte di eventuali nuove barriere doganali e fiscali che dovessero emergere a causa del divorzio del Regno Unito dall'Unione Europea. È interessante come, qui non c'entra ancora la Brexit, ci mancherebbe, come anche in Gran Bretagna, paese più dinamico in questi anni, che ha recuperato lo shock della crisi e prima viaggiava in forte espansione economica, diciamo, anche in Gran Bretagna la generazione dei trentenni starà e sta molto peggio dei fratelli maggiori, perché nonostante il PIL britannico, ripeto, abbia avuto tassi di crescita in questi anni abbastanza alti, sicuramente superiori alla media euro, se si prendono i fratelli maggiori, cioè i quarantenni, beh, insomma, lo dice l'Institute for Fiscal Studies, pubblicando oggi una ricerca, c'è un vero e proprio tracollo delle entrate, praticamente 27.000 sterline all'anno in media per chi adesso ha 30 anni, la metà di quanto potevano guadagnare alla loro età, cioè quando avevano 30 anni, gli attuali quarantenni, 53.000 sterline. Quindi i baby boomers degli anni 70, e vale anche per i baby boomers di fine anni 60, se la sono passata molto meglio quando hanno lavorato a Londra e hanno vissuto a Londra 10 anni fa rispetto a chi ci lavora adesso, nonostante tutti i flussi che vediamo anche cervelli che vanno, cervelli comunque, persone formate che vanno a Londra. Dato impressionante, da 53.000 sterline a 27.000 sterline in media. Ed è la prima volta dal dopoguerra, cioè da 70 anni, che una generazione risulta impoverita, e di molto, rispetto alla generazione precedente. Stiamo parlando della Gran Bretagna, per cui non dell'Italia. Allora, andiamo avanti con l'Italia invece. Oggi si è risvegliata l'inflazione, nel senso che abbiamo il dato sull'inflazione a settembre, a livello europeo più 0,4%, era 0,2% ad agosto, in Italia più 0,1%, attenzione, io con questi decimali sto uscendo pazzo, tra 0,1% e meno 0,1%, nel nostro vivere quotidiano non ci accorgiamo di nulla, restano dei prezzi sostanzialmente fermi, però statisticamente non è più deflazione, anche se rispetto ad agosto hanno fatto meno 0,2%. L'inversione di tendenza è dovuta principalmente ai beni energetici, che invece che fare meno 6,5% hanno fatto meno 3,5%. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se levassimo la componente energetica, che non dipende dai nostri consumi, ma dal prezzo del petrolio, siamo ancora in deflazione. Io invito anche le agenzie di stampa e quelli che danno notizia a essere un pochino più precisi, perché sennò il titolo che esce è Italia fuori dalla deflazione, poi vai a vedere e ti accorgi che è solo questo più 0,1 dovuto a un po' di aumento del prezzo della benzina, del prezzo del petrolio, della variabile energetica rispetto ad agosto. Allora, al netto di questo, una volta si diceva l'indice core che non teneva conto dei prodotti energetici proprio perché hanno altre dinamiche, allora dovresti dire no, siamo ancora in totale deflazione. Non dovremmo farlo noi, dovrebbe spiegarlo l'Istat in primis, spiegando bene, facendo i titoli bene, le agenzie riportandoli bene, non obbligando noi a andare sempre tra le righe a capire esattamente che cosa è successo. Ad agosto il tasso di disoccupazione giovanile, invece in Italia, di 15-24 anni, è calato di 0,4 punti rispetto al mese precedente. Sono 13.000 occupati in più ad agosto, 162.000 in più, questo a livello generale rispetto a un anno prima, e il ministro Poletti dice che con il governo Renzi si sono creati 590.000 posti di lavoro, gli occupati erano 22.180.000, oggi sono 22.768.000. Le banche in Italia nel frattempo continuano a chiudere gli sportelli, che sono ancora tanti rispetto alla media europea, lo dico senza, diciamo, un giudizio di valore. Ancora sono stati chiusi 900 sportelli bancari in meno di un anno. A giugno, secondo il rapporto di Banca d'Italia, le filiali sono scese a 29.511, ma ricordo la famosa battuta del Financial Times dove nel commentare il problema del sistema bancario italiano veniva citato anche l'alto numero di sportelli filiali, con la battuta ci sono più filiali bancarie che pizzerie in Italia. Allora, restiamo ancora con due notizie, una soprattutto sul governo. Oggi il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, intervistato durante il festival Nova Open Innovation Day, che è il festival dell'innovazione che si sta tenendo a Padova, è organizzato da Nova, che come immagino molti di voi sappiano è l'inserto del Sole 24 Ore dedicato alle nuove tecnologie, alle frontiere, dicevo, e all'innovazione. Oggi Carlo Calenda ha presentato anche a Padova il piano Industria 4.0, ricordando che saranno stanziati 13 miliardi di euro sotto forma di incentivi agli investimenti, e ha poi aggiunto, devo dire che sono d'accordissimo con Calenda, che a livello europeo la sua impressione è che le politiche industriali viaggino e vivono nella totale confusione. Sentiamo questo passaggio del ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda. Sono 13 miliardi di incentivi agli investimenti, ma soprattutto sono incentivi fiscali, quindi automatici. Gli imprenditori non devono chiedere niente, non devono fare niente tranne che investire. Partono tutti dal 2017 e hanno sostanzialmente tre linee: il superammortamento, che riguarda i macchinari, tutte le macchine, sostanzialmente macchine utensili, eccetera. L'iperammortamento, che è ancora più rafforzato al 250% per i beni che sono parte della rivoluzione industriale, quindi digitali per semplicità, sono molte categorie, e un rafforzamento del credito alla ricerca e innovazione. Questo è il pezzo di incentivi, chiamiamoli fiscali. Dopodiché c'è un pezzo di rafforzamento di strumenti esistenti, perché per esempio oggi, anche se l'imprenditore vuole investire, spesso gli manca la finanza, quindi abbiamo rafforzato il Fondo Centrale di Garanzia, che garantisce fino all'80% circa un ammontare di 25 miliardi, tra i 22 e 25 miliardi di euro di crediti alle PMI, che fanno le banche, che garantiamo noi, che però abbiamo un po' concentrato oggi sugli investimenti, perché oggi riteniamo che il tema centrale è per le imprese, ma per il paese in generale sono gli investimenti. La mia impressione è che sono nella totale confusione, cioè nel senso che ieri siamo andati a parlare di acciaio, di politica industriale, e una parola che è scomparsa, anzi viene considerata un po' una parolaccia, l'idea che l'industria è una roba destinata a scomparire nei paesi avanzati. Per fortuna tutto il fronte dei paesi europei ieri ha messo su questo all'indice la Commissione, ha detto guardate Germania, Francia, noi tutti, dicendo guardate non è possibile che qui è scomparsa la parola politica industriale da un continente che è stato grande grazie all'industria. La classifica della settimana. Allora, prima di arrivare a Deutsche Bank, alla borsa, il caso virtuoso, la classifica della settimana, che oggi è una classifica sia sui soldi sprecati, ma anche sugli atteggiamenti che rendono inefficiente e quindi fanno sprecare soldi, poco virtuoso il nostro paese, visto che ci riempiamo sempre la bocca sui nostri figli, la formazione, l'investimento in cultura, informazione, dare l'esempio, il merito è sempre quello dei figli degli altri, mai dei figli nostri, no, ovviamente, perché poi lì in quel caso si menano i professori se danno un brutto voto. Ma andiamo con ordine e poi chiuderemo in bellezza, però non voglio rovinarmi nulla. Allora, andiamo alla ASL di Vicenza e al ruolo dei sindacati nella ASL 6 di Vicenza. Che cosa è successo? Guarda, questa vicenda è incredibile e la dice lunga anche sulla ignavia di chi dirige una ASL e, a mio avviso, sulla arroganza e la protervia dei sindacati che difendono l'indifendibile. Che cosa succede? Allora, succede che c'è un primario che, tra l'altro, voglio dire, lui si chiama Vincenzo Riboni, da venerdì scorso è a casa. Cosa ha fatto di grave? Perché sospendere un primario, gli hanno levato lo stipendio fino al 2 ottobre e poi i vertici della ASL 6 di Vicenza gli hanno chiesto di accettare il premuroso consiglio di smaltire le moltissime ferie arretrate accumulate e poi avviarsi serenamente verso la pensione. Lui ne ha tante di ferie, perché lo sta difendendo il sindaco di Vicenza, Achille Variati, va detto, perché oltre ad essere uno stacanovista, non c'è sabato domenica che non sia al suo posto in pronto soccorso per seguire i malati, è anche abituato, questa è una colpa, ad andare in Africa a dare una mano ai bambini africani. Era reduce a gennaio 2016 dalla Sierra Leone, dove aveva riaperto la sala operatoria dell'ospedale di Lunsar. 151 posti letto per 500.000 di persone, chiusa l'anno prima a causa dell'epidemia di Ebola, ovviamente tutto a titolo gratuito. Ma voglio dire, è due dei decenni che fa volontariato. Che cosa succede a gennaio? Lui torna e che cosa scopre? Scopre che su vari profili di WhatsApp utilizzati da una sessantina fra medici e infermieri del San Bortolo, dove lui è primario, c'era una chat che si chiama Gli Amici di Maria, lui secondo nome di Riboni, ma insomma alcuni infermieri si sfidavano a usare gli aghi più grossi per fare le flebo ai pazienti. Non sto scherzando, c'erano frasi come: come va la sfida grigi contro arancioni, ossia il diametro delle cannule per infusione venosa, grigio era quella più sottile, arancio quella di diametro maggiore e quindi più doloroso per il paziente. È uscita anche sui giornali, un'infermiera addirittura rivendicava due aranci, uno grigio, infilato un arancio Aurora, dai, sì, facciamo il tabellone con il punteggio. Insomma, onestamente, a casa mia una roba del genere quantomeno va sanzionata. Ma che ti metti a scherzare sulla dimensione degli aghi che infila i pazienti, brutto, deficiente o deficienti? No, ma in questo paese è bellissimo, perché il sindacato autonomo degli infermieri, NURSIND, che ha anche un segretario, Andrea Bottega, si precipita a sentenziare: la vicenda era inventata, non c'è mai stata questa gara, i fatti si basano su dichiarazioni false, chi pagherà per i danni d'immagine al pronto soccorso, all'ospedale San Bortolo, all'intera città? Ma insomma, tanto inventata mica tanto, perché l'archiviazione di questa vicenda, in cui gli infermieri e anche alcuni medici facevano una gara sulle dimensioni delle siringhe, l'archiviazione dice che sono atti goliardici, vengono fatti due richiami e due colpevoli solo per aver chattato in servizio, quindi non è che venga smentita la vicenda, peggio il taccon del buso, visto che siamo a Vicenza, perché si dice: ma no, era un po' di goliardia, c'è un procedimento disciplinare contro un'infermiera dove questa immonda gara viene liquidata come uno sviamento dell'attività istituzionale. Ma che, dell'infermiera? Ma che, qual è il ruolo istituzionale dell'infermiera? No, un ruolo professionale. È un uso improprio del telefono cellulare personale che in costanza di servizio dovrebbe essere utilizzata solo per le emergenze e non per attività di svago, come lo scambio in una chat privata di messaggi, di immagini dal contenuto futile, di dubbio gusto e lesivo della dignità dei pazienti. Ma porca miseria! Allora, se questa ha fatto dei messaggi, almeno lei e gli altri, di dubbio gusto, lesivo della dignità dei pazienti, immagini del contenuto futile, secondo me anche delle porcate vere e proprie, no? E i futili motivi sono un aggravante, non sono un attenuante in questo cavolo di paese, ma la vogliamo leggere la legge ogni tanto? Il futile motivo è un aggravante, non è un attenuante. Però il sindacato, tam, piccolo lì, Andrea Bottega, NURSIND, Andrea Bottega, io spero che non tocchi mai a lei essere oggetto di una gara in cui quelli che lei difende a spada tratta si dilettano a dire quanto deve essere, se vince l'arancione vince il grigio, perché il grigio, se ho ben capito, era, adesso lo vado a riprendere, erano due arance, uno grigio, il sottile era quello arancio, era quello grigio, quello arancio è quello di diametro maggiore. Ecco, stia attento Bottega, che se va a farsi operare magari vince la gara dell'arancio, ok? Allora, cosa fa sto primario che viene sospeso e senza stipendio fino al 2 ottobre? Gli chiedono anche sostanzialmente di restare in vacanza fino alla pensione. Quando rientra dall'ospedale di Lund, da aver attivato l'ospedale in Sierra Leone, si accorge della cosa, avverte la direzione, che all'inizio dice faremo sfaceli, convoca i protagonisti. I messaggi poi sono pubblicati anche sul giornale di Vicenza e appaiono inequivocabili. Riboni denuncia, primario, il coinvolgimento dei soggetti convocati in un dialogo prescritto durante l'attività di servizio, che evidenzia una intollerabile, inaccettabile e riprovevole strumentalizzazione dei pazienti nell'esercizio della professione. Certe ammissioni finiscono anche a verbale. Non c'è giustificazione, aggiunge Riboni, che tolleri superficialità, scherzi, battute e quant'altro. Gli eventi sono stati realizzati a seguito di una strategia che testimonia l'intenzionalità dei comportamenti a danno del paziente, come evidenziato dalle carte allegate alla presente. Risultato. Poi vado sul metodo, che ho già le scatole che mi girano. Risultato. Lui viene sospeso senza stipendio. Adesso ha fatto ricorso, chiaramente. Sospeso senza stipendio fino al 2 ottobre. E invece gli infermieri vengono, diciamo, la cosa viene archiviata come, insomma, sviamento, come se uno avesse chiamato il figlio o la tata col telefono di servizio per sapere come sta. Così è finita la cosa. Allora, il segretario di Nursind si chiama Andrea Bottega. Adesso, dopo il metodo, andiamo a vedere anche chi è il responsabile della ASL 6 di Vicenza, perché io il dirigente della ASL 6 di Vicenza lo voglio dare per nome e per cognome, visto che diciamo, è lui che ha dato la punizione esemplare al primario. Meteo e poi pubblicità, 349-238-666 per SMS e WhatsApp. State ascoltando un programma offerto da... Axerta, indaga, documenta, accerta, www.axerta.it. Focus Economia. minuti. Non vi dico cosa è successo con gli SMS e WhatsApp al 349-238-6666 per il caso della ASL di Vicenza. Oh, sono ancora al quinto posto, devo andare veloce oggi. Lo so che era stato ospite il direttore della ASL di Alessandro Milan e Oscar Giannino, attenti noi due. E infatti la riprendiamo oggi, riprendiamo anche, ce n'è anche un'altra notizia della classifica già trattata da uno di questi programmi, adesso vi arriviamo, da uno dei nostri programmi. Però non cambia il tema, cioè il dirigente ospite di Milan e Giannino ha detto non avevo rinvenuto gli estremi. Ok, ma perché sospendi un primario? E poi come mai nell'archiviare viene riconosciuto a due colpevoli, solo a due colpevoli, per aver chattato in servizio? Quindi la cosa c'è stata. Allora, qui il problema della valutazione. Come si chiama? Il direttore generale della ASL 6 si chiama Giovanni Pavesi, la direttrice sanitaria si chiama Simona Aurelia Bellometti, ok? Il segretario, non me ne frega nulla se faccio un nome, avessero qualcosa da querelare, querelassero e poi ci vediamo in diretta o in tribunale. Il segretario di Nursind, anche perché sto riferendo i fatti, non è che sto inventando io, Andrea Bottega, il segretario del sindacato in cui gli infermieri hanno sempre e comunque ragione. Allora, direttore generale Giovanni Pavesi, direttrice sanitaria Simona Aurelia Bellometti, segretario di Nursind Andrea Bottega, io vi auguro di non finire mai in questa gara e soprattutto di vincere la gara di chi ha la siringa più larga nel gruppo degli arancioni, va bene? Io ve lo auguro di non finire. Alcuni ascoltatori hanno un augurio diverso, ma non voglio diventare volgare, va bene su questo? Dopodiché mi scrivono anche, intanto è vero che il governatore Luca Zaia del Veneto aveva promesso ispezione immediata, qualcuno mi scrive ma guardi che è una guerra in corso perché il primario è del PD e il direttore sanitario della ASL 6 è della Lega. Guardi, non voglio neanche saperlo se uno è del PD o della Lega, dei 5 Stelle, di Forza Italia, perché è allucinante, chi se ne frega, cioè le guerre politiche si fanno su altro, ok? E anche Zai, è vero che Zai aveva promesso che sarebbe intervenuto. Non ci sono stati gli estremi? Mi fido di questo? Ma perché lo sospendete? Cioè, uno denuncia una cosa, voi ritenete che siano futili motivi, ritenete che sia un atto goliardico, vabbè, non è successo niente, ma e sospendi me? In una terra già martoriata, diciamo, da varie cose, tra cui la crisi bancaria della Popolare di Vicenza, insomma, una terra che dovrebbe anche interrogarsi ogni tanto, no? Primo che mi scrive che ce l'ho con Vicenza perché tifo Hellas, lo mando a quel paese oggi. Allora, andiamo avanti. Quarto posto, tutti teniamo famiglia in questo paese. Vi ricordate, insomma, che il ministro, devo dire, era il ministro, la legge era quella di Maria Stella Gelmini, il divieto ad assumere persone che hanno un grado di parentela nelle università italiane. Il problema qual è? È che la legge dello Stato ha prescritto 5 anni fa il divieto ai parenti di insegnare nella stessa facoltà. Ma come scrive Cantone, il mitico commissario all'autorità nazionale anticorruzione, hanno trovato evidentemente il modo di aggirarla, perché arrivano decine e decine di segnalazioni. Cantone dice siamo subissati da segnalazioni nelle università di sospetti di malaffare nei concorsi. Così numerosi da far dire a Cantone esiste un collegamento enorme, ma va là, tra la fuga dei cervelli e la corruzione, anche perché la fuga dei cervelli in questo paese non colpisce mai alcune categorie, non colpisce mai i figli di alcuni primari, non colpisce mai i politici, non colpisce mai anche alcuni giornalisti, ci mancherebbe, non c'è rischio di fuga dei cervelli lì, ok? E anche alcuni direttori della ASL non colpisce la fuga dei cervelli. Allora, tutto da verificare, moltissime segnalazioni. Comunque, Cantone ha raccontato che c'è un'università al sud dove hanno istituito, questa è bellissima, una cattedra di storia greca in una facoltà giuridica e una cattedra di diritto pubblico in una facoltà letteraria. Ma siamo i mici, cioè, noi riusciamo a fare la interdisciplinarità in maniera pazzesca. Aspettiamo una cattedra di biologia molecolare durante il corso di filologia romanza e aspettiamo una cattedra, non lo so, accetto consigli di diritto pubblico e comparato durante un corso di medicina, perché è giusto che la cultura abbia 360 gradi. In realtà il motivo qui era molto semplice: i titolari erano i figli di due professori delle altre università, si sono scambiati i favori, capisci? Io ricordo ancora la spiegazione di Luigi Frati, rettore della Sapienza, quello che ha piazzato tutta la famiglia dentro la Sapienza, che ho detto: ma insomma, quando Cesare Maldini era commissario tecnico della Nazionale, Paolo Maldini non l'hanno buttato fuori dalla squadra. A Frati, in campo si vede come giochi, e onestamente io non sono milanista, ma Paolo Maldini giochicchiava abbastanza bene. I tuoi figli, o meglio, tuo figlio cardiologo, tua moglie laureata in lettere, docente di storia della medicina, tua figlia laureata in giurisprudenza, docente di medicina legale, di più nominata dal governo Letta nel Comitato Nazionale di Bioetica, siamo sicuri che avessero già giocato nel Milan e avessero già i titoli per andare in nazionale, cioè insegnare, o sono solo i figli di Frati? Figlio di Frati, inteso non come clausura, non come sobrietà, un figlio di un frate, a parte che sembra un po' incestuoso, ma figlio del preside, rettore della Sapienza, dominus della Sapienza. Ma andiamo avanti, perché quando è stata approvata la norma della Gelmini, poi ci siamo accorti che improvvisamente la dottoressa Paola Rogliati, nuora del preside della facoltà di medicina di Tor Vergata a Roma, diventa subito professore associato nella cattedra. Lei è la nuora di Renato Lauro, preside della facoltà di medicina di Tor Vergata, diventa professore associato nella cattedra di malattie dell'apparato respiratorio. E si sottolinea il fatto che nella stessa facoltà e nel medesimo dipartimento c'è anche il marito della signora, nonché il figlio del preside, se la nuora, fin qua ci siamo, Davide Lauro, professore ordinario di endocrinologia, cattedra detenuta prima di lui dal padre. Ma io dico, ma non è possibile. La medicina non è una scienza infusa che uno impara per osmosi. Allora anch'io sono figlio di un medico, domani mi metto a operare, no? Tanto in casa ho respirato aria. All'università di Bari c'è il corridoio tatarano, nella vita c'è il corridoio vasariano, quello che ti collega, diciamo, dagli Uffizi a Palazzo Pitti, passando sopra Ponte Vecchio e via così, bellissimo, aperto. E c'è anche però a Bari il corridoio tatarano, dove ci sono le stanze del professore di diritto privato Giovanni Tatarano e dei suoi figli Marco e Maria Chiara. E i figli sono pezzi a cuore, bisogna tenerseli vicini. Poi c'è a Bari su quanto a università, ragazzi, c'è la dinastia dei Massari, 9, altri due e facciamo la squadra di calcio, 9, tutti in università. Poi la dinastia dei Girone, 5, questi possono giocare solo calcio più piccolo, considerando anche il Genova. Insomma, devo dire, speriamo che Cantone vada avanti e le denunci tutte. Complimenti a tutti loro. Poi vi chiedete perché fuggono i cervelli, però i cervelli dei figli di certi primari, di certi professori, quelli non hanno bisogno di fuggire, oppure non possono. Mamma mia, oggi andiamo al terzo posto, perché devo correre un attimo. Terzo posto, cito in rapida sequenza tre casi di furbetti del cartellino, che se avanti così ci tocca fare una rubrica apposita. Allora, Comune di Biella, 33 indagati e non 8 come appreso in primo momento. I dipendenti comunali indagati a vario titolo nell'ambito delle inchieste della Procura di Biella delegavano la timbratura del badge a colleghi compiacenti, utilizzavano automezzi di proprietà comunale per il disbrigo di commissioni personali. Da Biella andiamo a Salerno, dove nel comune di Scafati, ma comunque adesso mi è venuto in mente ora, ma certo che se tu abiti nel comune di Scafati, sei scafato, e qui te lo puoi aspettare anche il furbetto del cartellino. Tutti scafati a Scafati. Per cui 18 provvedimenti, altrettanti furbetti sono stati scoperti mentre durante le ore di lavoro aggiustavano la bici, si dedicavano allo shopping. E poi c'è un dipendente comunale che, amico di Carlin Petrini, nell'ora di ufficio si dedicava alla coltivazione di ortaggi e verdure mentre risultava presente nella sede comunale. 5 mesi di indagine, l'operazione l'hanno chiamata mal comune, senza aggiungere mezzo gaudio. Alcuni passeggiavano così a lungo pur di non lavorare che arrivavano dal comune di Scafati al comune di Pompei. Sono pronti per la maratona di New York, ma dico tutto pur di non lavorare. centinaia di ore lavorative falsamente attestate, magari poi uno si sente pure male, gli vengono i calli, e dunque pagate dall'ente pubblico per prestazioni in realtà mai svolte. Non scatterà il licenziamento, ma solo una misura interdittiva che va da 1 a 6 mesi in base alla gravità. Non ho capito perché non scatti qua sospensione del licenziamento. Comunque, ultimo caso della settimana sul fronte dei furbetti del cartellino: il comune di Castel San Giorgio, provincia di Salerno, li hanno sospesi qui per un anno 12 dipendenti indagati per truffa e uso di documento falso. I dipendenti pubblici sono stati scoperti dai carabinieri, che li hanno filmati con alcune telecamere. Dopo aver timbrato il badge andavano al bar a fare la spesa. Ce n'era uno, e lui mi sta quasi simpatico, lui andava nel deposito a dormire. Lui, a questo punto, ma meglio così, vai nel deposito a dormire. Tutti attestavano il falso o di essere entrati, usciti, ore prima entrati, ore dopo usciti. Tra gli indagati ci sono i responsabili impiegati del settore servizi sociali, del cimitero, del protocollo, dell'ufficio tecnico, del centralino e anche l'operaio, ha detto le pulizie. Ma lavorava qualcuno a Castel San Giorgio? Beh. E vi rendete conto che questo paese usa la Guardia di Finanza nel caso di Scafati, i carabinieri nel caso di Biella, i carabinieri nel caso di Salerno, di Castel San Giorgio, con le telecamere non per intercettare mafia, 'ndrangheta, criminalità, spacciatori, ma per i dipendenti comunali. Traffico. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Focus Economia. Allora, secondo posto devo correre, qui sono 6 milioni di euro nemmeno nostri, di un privato, si chiama Telecom Italia, che aveva messo a disposizione Fondazione Telecom Italia, ora TIM, per ristrutturare un piccolo monumento, no? Stiamo parlando del Mausoleo di Augusto, la tomba antica più grande dell'umanità dopo le piramidi, edificata nel 28 a.C. per accogliere le spoglie del fondatore dell'impero romano. Ma una robetta così, in qualunque altro paese al mondo, avessero un mausoleo di Augusto del 28 a.C., avrebbero fatto un museo del mausoleo. Da noi è chiuso da 8 anni, a Roma chiaramente, circondata da una rete metallica, assediato dai capolinea degli autobus, in una situazione di degrado inaccettabile. Che cosa succede? Allora, non ci sono i soldi, perché è vero che a Roma hanno speso soldi in qualunque modo, l'abbiamo raccontato in questi anni, addirittura 42 milioni per affittare l'anno, per affittare a prezzi scandalosi dai palazzinari i residence dove collocare famiglie che si presumevano bisognose, ma non hanno mai trovato i milioni pochi per restaurare il Mausoleo di Augusto. Nel 2014 la Fondazione Telecom Italia dice: bene, diamo noi 6 milioni di euro, che si sommano ai 4 già faticosamente reperiti dallo Stato, e si arriva così all'idea che i lavori possono iniziare il 19 agosto 2014. Tra l'altro quel giorno il sito viene aperto al pubblico, perché sono i 2000 anni dalla morte di Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto, ma finisce sott'acqua perché scoppia una conduttura dell'acea, una figuraccia cosmica. Va bene, il 15 marzo 2015 il sovrintendente del Campidoglio e Beni Culturali Parisi Presicce dice: siamo arrivati al punto in cui stiamo partendo, ci sono i soldi, stanno per essere adoperati un bando pubblico, certamente entro la fine di marzo, e nell'arco di 3-4 mesi avvieremo i lavori. Passano 6 mesi dei lavori, neanche l'ombra, arrivano i soldi della Fondazione Telecom. Il sindaco di Roma si bea di questa cosa, Ignazio Marino, reduce dal viaggio a Filadelfia, quello che smentito dal Papa Francesco, non l'ho mai incontrato, insomma. No, ho anche i soldi per quello. In cima alla lista ci sono anche i 6 milioni di Telecom per il restauro del mausoleo. Marino poi lascia il comune, arriva Tronca, il commissario, i soldi sono sempre lì, c'è un vincolo, devi utilizzarli entro il 31 ottobre 2016. Il bando è già pronto, ma i burocrati del Campidoglio si mettono di traverso, contestando il fatto che la gara sia stata bandita con il metodo sensatissimo dell'offerta più economicamente convincente. Invece sostengono i burocrati del Campidoglio, che io manderei tutti quanti a restaurare il mausoleo, che bisogna procedere invece con il massimo ribasso. Ma porca miseria, ma se sono soldi privati e la Fondazione Telecom ne dà 6 milioni, ma siamo deficienti? Ma tienti l'offerta di Telecom? No, a nulla serve che il Parlamento approvi nel frattempo la legge delega sul nuovo codice degli appalti che decreta la morte del massimo ribasso. E perché lì i dirigenti del Campidoglio, no, noto luogo di efficienza amministrativa, Sindaco Raggi, questa notizia è per lei, quando avrà tempo rispetto ad altre cose da fare, si occupi anche di questa cosa. Allora, si deve rifare il bando, il comune è sommerso da offerte anomale, addirittura 25, con prezzi assurdi, vengono escluse una per una, finché si arriva all'aggiudicamento della gara e manca solo un mese alla scadenza al tempo massimo per aggiudicare questa gara. Il sovrintendente ostenta ottimismo, bravo lui, e dice dovremmo farcela, incrociamo le dita. Noi incrociamo le dita, però nel frattempo ci gira qualcos'altro. Andiamo su GR24, poi il primo posto, il caso virtuoso e la vicenda Deutsche Bank. Primo posto è bellissimo. E parleremo di sindacati. Mi sta scrivendo Bottega, se ho ben visto. Adesso non ce la faccio, la prendiamo lunedì. Andrea Bottega, segretario del NUNSIND. 349-238-6666 per sms e whatsapp. E poi la pagina di Focus Economia, GR24. Domenica, ore 14:30. Voice Anatomy, Radio 24. Non mancate, sarebbe un peccato. Parola di Bond, James Bond. State ascoltando un programma offerto da Axerta, indaga, documenta, accerta, www.axerta.it. Focus Economia. Sette minuti, chiudiamo oggi un po' più lunga del solito, ma ragazzi, la poco invidiabile classifica di Focus Economia andando al primo posto, che non è appunto il mausoleo di Augusto, che pure se lo meritava, no, il primo posto riguarda la Will. Allora, ci siamo occupati la settimana scorsa di una vicenda allucinante, ossia delle crociere che l'allora segretario della Will, Luigi Angeletti, ma anche l'attuale segretario Carmelo Barbagallo, e altri sei sindacalisti sono accusati dalla Procura di Roma di concorso in appropriazione indebita. Gli altri sei sono Goffredo Patriarca, Giuseppe Caronia, Romano Bellissima, Salvatore Bosco, Luigi Simeone e Ubaldo Conti. Oggi abbiamo fatto i nomi di tutti, quindi. Allora, che cosa è successo? Vacanze extra lusso in crociera assieme al loro signore per 16.450 euro ogni vacanza. Qualche acquisto di gioielli della nota casa Swarovski per oltre 7.000 euro, più altre spesucce da 3.000 euro al California Camping Village. Tutta roba utilissima, no? Per tutelare e affrontare i loro iscritti della Will. Magari uno pensava si occupassero del contratto di secondo livello, della contrattazione aziendale, ma che? C'erano anche madri e nipoti, quest'ultimo a debito riguarda però solo Goffredo Patriarca e Ubaldo Conti, quello del California Camping Village. Per le crociere si trattava della costa atlantica terra dei vichinghi, che evidentemente avevano un passato di rappresentanza sindacale importante, e costa deliziosa. Allora, sentite, anticipo la zanzara di due minuti, sentite cosa ha risposto l'attuale segretario della Will, Carmelo Barbagallo, alla domanda di Giuseppe Cruciani. Si capisce benissimo che lui dice, ma io ero lì perché insomma il segretario generale aveva chiesto, anch'io non è che volessi andare lì. Però capito, intanto la crociera l'hai fatta. Sentiamo la risposta di Barbagallo. Eravamo in bassa stagione. Sì. Il coinvolgimento della cosa della categoria dell'autotrasporto era perché era last minute, perché non potevamo stabilire per tempo quando andare. E la cosa che vorrei far notare è che al di là se ci crede o non si ci crede, quelle riunioni che si facevano durante l'arco della giornata, non sempre dalla mattina alla sera. Perché, in crociera? In crociera, sì. Hanno determinato il cambiamento della linea della Will. Ah, ok, cioè le sono servite, lei dice. Sì, e hanno, posso dirle una cosa? Sì. Se c'è un solo lavoratore che si è sentito ferito di questa cosa, io mi scuso con il lavoratore, perché non era mia intenzione. Ho partecipato a delle riunioni, chiamiamole sì, anomale, e però quando ho potuto determinare la linea della Will, non ce le sono fatte più. Era la gestione precedente che faceva queste cose, che decideva queste crociere? Non ero io il segretario generale, essendo il segretario organizzativo dovevo seguire il segretario generale. Cioè lei ha obbedito in pratica? No, non voglio dire che ho obbedito, perché sennò sembrerebbe militare. Questa è anomala, questa cosa qua, non è che uno fa le riunioni in crociera, no? E io vorrei far ricordare che dalla conferenza di organizzazione che abbiamo fatto, la Will ha cambiato impostazione. Allora, noi avevamo un problema. Qual era? Di parlare a lungo di alcune cose. Normalmente dentro il sindacato si parla sempre, ma a volte non si riesce su alcun argomento a trovare la sintesi. Ah, lei dice che praticamente in crociera, essendoci più tempo, uno riesce magari a stare, certo, più insieme. Quello che lasciava il giorno prima lo riprendeva il giorno dopo. Viene da pensare, perché le avete sospese queste cose? Se servono così tanto, perché avete chiuso questa vicenda qua? Ho cercato pure di spiegarlo, perché non mi piaceva, perché soffrivo un po' di mal di mare. Potete anche non crederci, ma diciamo alcune cose, non dico tutte, sono scaturite pure da quelle. Da quelle crociere là. Senta, ma sua moglie come si trovava in quelle crociere? Male. Molto spesso, siccome ha problemi di deambulazione, restava in cabina. Non voglio ora fare la vittima. Quanto costava al sindacato questa crociera? L'ha capito lei alla fine? Non me ne occupavo, non lo sapevo. Che erano tutto in bassa stagione. Fu una minchiata, dai. Col senno del poi è così. No, voglio dire, io ho le lacrime agli occhi. Allora, al di là che dopo l'inglese di Mario Draghi mettiamo l'inglese di Barbagallo, last minute, ma non me ne frega nulla del last minute. Riunioni anomale, ma che cavolo vuol dire riunioni anomale? È stato un incubo praticamente, lui soffriva di mal di mare, la moglie chiusa in cabina, è un miracolo che siano ancora sposati Barbagallo. Barbagallo non può dire però che lui non sapeva nulla, perché era il segretario organizzativo della UIL ai tempi in cui il segretario Angeletti organizzava le crociere a 16.500 euro. Però sono servite queste crociere, io proporrei le Maldive, proporrei, oddio, se vuoi fare veramente il segretario della UIL vai in un posto un po' più da chi rappresenti, no? Però anche le Maldive vanno bene, così riuscite a ragionare. E poi siamo di fronte al primo caso di crociera a sua insaputa. E lì la linea, il solco l'ha tracciato il mitico Scaiola. Per cui adesso anche mi sono ritrovato a mia insaputa. C'era pure il mare, la nave ballava, pensa un po', cavolo. Oddio. Però hanno dettato la linea della UIL futura in crociera. Ma che è Love Boat? Io non ne posso. No, ma guardate che uno così, cioè, non deve stare segretario della UIL, deve andare oltre, deve andare più avanti. Ingegnere Matteo Spaggiari, fondatore di Bike Bike, buonasera. Buonasera, dottor Barigioni. Dunque, cos'è Bike Bike? Ricordo che in questo momento è il nostro Prozac, il nostro antidepressivo, perché dopo quello che ho letto per un'ora non ce la faccio più. Cos'è Bike Bike? Quando l'avete fondata? Dove e con quanti soldi? Bike Bike è una startup che ha inventato e brevettato una tecnologia innovativa per la produzione di motori elettrici per biciclette elettriche. È stata fondata 2 anni fa a Rovereto, ma l'idea nasce prima. Io, dopo la laurea in ingegneria meccanica, ho iniziato a lavorare per una multinazionale americana che produce motori elettrici, mentre mio fratello, dopo la laurea in ingegneria in economia e commercio, ha fatto un MBA all'Università di Pechino. Un giorno sento un amico concessionario di scooter che mi dice che le vendite di scooter sono calate in Italia, e mi dice che ha scoperto le biciclette elettriche, uno strumento utilissimo, non bisogna indossare il casco. Senza pagare l'assicurazione. Però queste biciclette hanno un problema, non riescono ad andare in salita. E lì mi lancia una sfida, mi dice: tu che lavori per una multinazionale di motori elettrici, non ce la fai a progettare una bici elettrica in grado di affrontare le salite? Di lì comincio a pensare un po' all'idea, faccio un progetto di massima, lo pubblico e vengo intercettato da un acceleratore trentino del circuito Trentino Sviluppo, a cui è piaciuta fin da subito l'idea. E mi dice: saresti disposto a mollare tutto per dedicarti a questo progetto? Noi siamo intenzionati a finanziarti. Ne parlo con mio fratello Luca, che a quell'epoca viveva in Cina. Decide di tornare, e così nasce Bike Bike. Senta, quanti siete e quanto avete fatturato? E se avete avuto altri soci, quello che si chiama private equity, che è entrato nella società? Siamo piccoli, siamo appena iniziati, ci sono voluti 2 anni di sviluppo del prodotto e è culminato con una campagna Kickstarter, quindi raccolta di denaro da privati come crowdfunding, quindi abbiamo dato alle persone la possibilità di acquistare in anticipo il kit con forte sconto su una piattaforma online. Abbiamo raccolto 145.000 euro in questo modo, e che ci sono serviti per, chiaramente per lo sviluppo, e ci stanno servendo adesso per iniziare la produzione. Prima di questi sono stati fondamentali i premi che ci hanno, consegnato Ford nel 2015, $50.000 come migliore startup nel settore automotive, e il premio Edison di quest'anno di €65.000. Siamo in quattro nel team, e siamo in forte espansione, dobbiamo iniziare la produzione, quindi stiamo uscendo dalla fase embrionale e ci stiamo trasformando in un'azienda con un prodotto, con una produzione. Quindi voi siete a Rovereto, giusto? Esatto. Ok, in bocca al lupo a lei, alle quattro persone, spero che cosa avete, le avete assunte o sono certo, ancora... Ok, certo. Bene, non è così certo. Non è così certo in questo periodo. Bene, ancora, e in bocca al lupo, come sempre facciamo a lei, ai fondatori, anche per la, così, il coraggio dimostrato nel lanciarsi una nuova attività. Non vi dico, stavo sorridendo prima, perché dopo il pezzo di Barbagallo alla Zanzara, mi sta arrivando di tutto... Will Boat per la crociera, così, ma soprattutto un ascoltatore che gli do il premio oggi come migliore battuta scrive: Will al sapore di Will, ce l'abbiamo? bellissima Barbagallo, Angeletti, dopo tutto quello che ci avete raccontato in questi anni, ve la dedichiamo, perché abbiamo capito che la crociera serve, lo studieranno anche ad Harvard, per delineare la strategia futura, e la nostra solidarietà va a Barbagallo, che ha avuto mal di pancia, mal di stomaco, la moglie chiusa in cabina, non si sentiva tanto bene ed era sostanzialmente coinvolto in questo incubo nei mari del nord, tra i fiordi, a sua insaputa. Traffico. JP Morgan Asset Management vi presenta Focus Economia. Set free. 18 e 20 minuti, ci possiamo occupare di Deutsche Bank adesso, lo dico agli ascoltatori che mi stanno scrivendo, pure in bassa stagione la crociera, lo so ragazzi, lo so, sono problemi. Allora, la borsa oggi la faccio io, nel senso che la borsa oggi si chiama Deutsche Bank, hanno recuperato le banche più 7% Pop Milano, più 4,30% Banca Popolare, più 3% Pop Emilia Romagna, bene oggi anche Steam Microelectronics più 3,60%, continuando sulle banche più 2,70% UBibanca, e Unicredit più 1,70. Di negativa c'è il Monte dei Paschi meno 1,20, Generali meno 0,90 e poi Luxottica meno 1,35%. Bene anche sempre sul petrolio Saipem, Tenaris, ma non forti come ieri, anche se Saipem fa il 2,80%, Fiat Chrysler più 1,80 e Ferrari più 1,60. Ma chiaramente la vicenda di oggi si chiama Deutsche Bank, che è arrivata a perdere oltre il 9%, poi l'ha recuperato. Che cosa è successo? Sembra da indiscrezioni di stampa che gli Stati Uniti si accontenteranno, tra virgolette, di 5 miliardi e 400 milioni di multa, non più 14 miliardi di dollari di multa. Sullo sfondo però resta una settimana in cui il Monte dei Paschi è passato in secondo piano a livello europeo. Tutte le attenzioni si concentrano su Deutsche Bank, è intervenuto anche il numero uno dicendo che queste speculazioni non sono giustificate, ma il tema c'è. Oggi la borsa ha preso una scoppola sul titolo, trascinando tutti gli altri titoli bancari. Chiedo che cosa ci sia sotto, al di là della multa dei 30 miliardi di derivati di cui parliamo ormai da settimane, in pancia Deutsche Bank, soprattutto per colpa della controllata americana di Deutsche Bank in questi anni. Ad Alessandro Platerotti, il vice direttore del Sole 24 Ore, buonasera Alessandro. Buonasera a voi. In estrema sintesi, io metterei questo ordine: un clima velenoso in Europa su come gestire le crisi finanziarie e i salvataggi bancari, l'abbiamo visto nel nostro caso. L'effetto, chiamiamolo così, un po' distorsivo dei QE, degli allentamenti quantitativi e degli aiuti di Stato sulla gestione del rischio sistemico. Mi spiego in questo modo. In passato erano le banche a gestire gestire con i governi il loro rischio sistemico. Tant'è vero, si diceva che le banche controllano i sistemi politici per la loro forza finanziaria. In realtà, con il QE e con gli aiuti di Stato si è invertita l'equazione. Sono oggi i governi che regolano, i governi e le istituzioni monetarie che regolano il rubinetto della liquidità, a gestire il rischio sistemico. Perché Deutsche Bank è crollata verticalmente in borsa? Si dice perché il governo americano ha annunciato la possibilità, soltanto la possibilità, di colpirla con una multa di 14 miliardi. Questo ha messo in moto un rischio sistemico. È la prima volta che un governo che mette in moto un possibile rischio sistemico, la caduta di Deutsche Bank, non più mercato, e non è il mercato finanziario. Quindi questo introduce una variabile politica all'interno del dibattito, e questo è importante. Poi ancora, problemi strutturali, i costi di Deutsche Bank sono effettivamente molto alti rispetto alla media europea, e ancora il bilancio di quella banca è molto difficile da decifrare per via dei derivati. E poi l'ultimo aspetto che bisogna tenere importante, in realtà, è che noi stiamo tutti a guardare l'andamento delle azioni, ma se guardiamo le obbligazioni di Deutsche Bank in tutto questo periodo qua, ci si accorgerà che il mercato non stava apprezzando il default della banca, ma la possibilità che saltasse al pagamento di una cedola. Questo parlo dei bond senior non, e i subordinati in questo senso qua. Allora, per tirare le somme, c'è un grandissimo nervosismo e c'è soprattutto l'incertezza del come si possano gestire crisi di quella portata al di là degli aiuti di Stato. Adesso nei prossimi giorni vedremo come si comporterà il governo tedesco, ma quello che è la voce del mercato, dalla pancia, è questa: fate un aumento di capitale il più presto possibile e chiudiamo la partita di Deutsche Bank. Allora, tu già hai accennato alcuni aspetti, quello che mi interessa di più in questo momento per concludere è l'aspetto tra virgolette politico, cioè sì. C'è la vicenda Volkswagen, c'è la vicenda Deutsche Bank, c'è la controvicenda tedesca su Apple e soprattutto WhatsApp, se non ricordo male, di 3 giorni fa. E c'è chi scrive e dice: a questo punto non siamo di fronte a casi singoli, questo è uno scontro politico, di politica estera fatta con altri mezzi, non la guerra, ma diciamo la guerra economica, tra Stati Uniti e Germania. Gli Stati Uniti sono irritati con la Germania perché hanno chiesto più volte nel G20, nel G7... un atteggiamento diverso in Europa da parte di Berlino, che continua invece a mantenere l'austerity, deprimendo l'area economica dell'euro e non consentendo all'America di avere una sponda, diciamo, atlantica sulla la faccio molto breve, sulla crescita, sì, economica. Questo è un messaggio politico. Tu dietro questo vedi anche un proseguimento della politica estera con altri mezzi? Allora, mettiamolo in questi termini. Quando ho detto prima che la politica che tiene le leve, che manovra le leve della finanza, perché appunto basta interrompere i QE o gli aiuti di Stato e crollano i mercati. Allora, in questo caso non è uno scontro politico Italia, America-Europa, perché in realtà, anche per colpa nostra, abbiamo delegato la Germania di rappresentare l'Europa, e questo è un altro dei risultati delle politiche, e anche data. Noi l'abbiamo attribuito, sì, di fatto. Allora, che cosa succede? Se l'America vuole forzare la mano all'Europa e firmare ad esempio il trattato commerciale TTIP, sì, sì, ricordiamo che il caso Volkswagen è esploso nel momento in cui si negoziava l'auto al TTIP. Quando è riesploso adesso la multa a Deutsche Bank? Nel momento in cui la Germania e la Francia avevano interrotto il negoziato. Allora, è forte l'impressione che la presa di posizione di Washington e del governo abbia utilizzato la leva del rischio sistemico, cioè mettere paura all'Europa, minacciando di sanzionare una banca. Noi non possiamo farlo, in Europa non c'è una legge come quella americana, la Sarbanes-Oxley, che permette al governo di dare una multa da 20 miliardi, non abbiamo lo stesso potere negoziale, dobbiamo riflettere su come correggere l'andamento. Aggiungo anche le multe della Commissione Europea a certi giganti dell'IT americani, ma non le abbiamo ancora date. Non le abbiamo ancora date, però insomma, quello però era più Bruxelles. Qui il tema, a mio avviso, è, come tu ricordavi, è molto più Berlino-Washington. Sono rapporti molto delicati perché, ripeto, è la Germania, come nella seconda guerra mondiale, è vista come il centro del problema da tutti. Quindi, dell'Europa. Colpendo Berlino si vince l'Europa. Colpendo Berlino si vince l'Europa. E devo dire che alcuni in Europa non lo possono dire, ma un po' contenti sono. Non più, perché hanno capito in molti che cosa significa indebolire la Germania in questo momento o colpire duramente la Germania. Hai delle, sì, onde d'urto che l'hai vista in borsa da noi. Fammi dire una cosa, però la Germania ci ha messo del suo nel farsi colpire, nel senso che non ha mai avuto un atteggiamento europeista da dire vabbè, facciamo squadra comune, ed è rimasta tra virgolette anche un po' isolata in Europa. Io direi questo: la Germania ha detto l'Europa sono io, che è diverso. Sì, ma lì torniamo a un tema che adesso non riusciamo a affrontare. Se tu sei l'Europa, a questo punto esercita anche la leadership per gli europei, non solo per i tedeschi. Invece questo è sempre... Ma quando noi chiediamo alla Germania di investire il surplus, esatto, gli investimenti pubblici, cosa gli stiamo dicendo? Sei tu il treno europeo. Non c'è dubbio. Grazie anche a Alessandro grazie Praterotti, vice direttore del Sole 24 Ore. Allora, a me non resta che ringraziare come sempre Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione e poi in studio anche questa settimana. Augurare a voi un buon fine settimana, soprattutto a partire da chi dovrà trascorrerlo lavorando. Noi ci risentiamo con Focus Economia dal lunedì dalle 17 in poi. Intanto comunque una buona serata da Sebastiano Barisoni. Radio 24. La passione si sente.